moltissimi amano il presidente Berlusconi e quindi hanno cavalcato questo concetto: presidente, siamo con te, meno male che Silvio c'è. Se Gianfranco Fini, presidente Fini, sì, non ha provato nessuno, e che ha avuto la bontà di scrivergli una canzone, diventa un problema suo. Secondo me fa brutta figura dirlo. Meno male che Fini c'è, insomma, dovrebbe se il presidente Fini me lo chiede, volentieri gli facciamo una versione tutta per lui. Come la farebbe la canzone per Fini, Vantini? Ma dopo presidente siamo con te, ci può stare meno male che Fini te, Fini c'è, ci può stare meno male che Bocchino c'è, ci può stare tutto, no? Addirittura Bocchino, non esageriamo, insomma. No, ma sì, forse stiamo un po' esagerando, però concettualmente questo è. Dunque, secondo lei, siccome questa frase di Fini pronunciata a porta, se non a Ballarò, anzi a Ballarò, che cosa nasconde? Un po' di invidia? Ma io credo che potrebbe anche esserci un po' di invidia, ma è un uomo così intelligente, il presidente Fini, che sarebbe meglio occuparsi di politica. Ecco, ma perché non c'è un Vantini per Fini? Ma che ne so, forse proprio verrebbe una questione di carisma. Dobbiamo tutti ricordarci di chi siamo, di cosa facciamo, e anche a un certo punto accontentarci e riconoscerlo. Non la vedo una cosa così drammatica. Mi consente una cosa, volevo ricordare al dottor Vesta. Adesso non utilizzi è una cosa importante, che non l'ha scritta Mariano Ficella, ma l'ha scritta Andrea Vantini.